In sala grande ci stai se tipo ti piace la musica, vuoi divertirti perché è pieno di ragazzi stranieri che c'è una cosa, bisogna specificarlo, però sono soprattutto loro che vengono lì, si divertono, niente, ballano, alcuni sono bravi, tipo ti fanno entrare, tipo quando sei lì tipo ti fanno entrare nel loro gruppo a ballare se ti piace ballare, così. Gli italiani sono diciamo in media il 5%. Secondo me non si può sapere perché non hai la carta d'identità di quelli là, cioè non è che tu vedi uno col colore della pelle diverso, allora non è italiano, perché ci sono tanti tunisini, origini tunisini che sono italiani, marocchini o africani, però anche se non fosse che ci sono, cioè anche se fosse che ci sono pochi italiani non mi pare un problema. Contesto che conosco meglio, che è questo qua qui, sicuramente farei una sorta di partitura assolutamente poliritmica e anche politimbrica, cioè visto che c'è una ricchezza. Un portale per aggregare gente da tutto il mondo, quindi dagli Stati Uniti al Sud America, all'India, all'Europa. Portiamo gente a Modena e il punto di ritrovo è Arrenor perché è un punto strategico. Come una volta c'era il porto, diciamo, qui vicino, noi diciamo, siamo un po' un porto per la gente che arriva un po' in giro da tutto il mondo e fa tecnologia tramite questi spazi di lavoro e tramite la rete che abbiamo creato. Un giorno vedo bussare due signore che mi chiedono se possono prendere un caffè, ma come al bar. Io gli dico no, non è un bar, però se volete il caffè, abbiamo la macchinetta, te lo faccio comunque, perché non era aperto come centro giovani. Allora entrano e chi sei, chi non sei, e viene fuori che è Eureka la tabaccaia, qui sopra ci presentiamo, ta ta ta. E alla fine del caffè lei contentissima dice va bene, allora ci conosceremo fa e mi dà 20 euro. E io dico no, no, ma cioè, non è un bar, cioè abbiamo la macchinetta perché c'è la macchinetta. Mi fa, e poi comunque un caffè, fa, non c'ho il re, cioè, no, ma proprio no, te lo offro. Lei fa no, no, tienile perché queste vi servono, tienile per le attività che tanto vi pagheranno poco, già lo so, queste le tieni.